tre giorni che si infittiscono, steli verdi uguali in questo prato o l'altro, sciupati o calpestati anche i più belli. Uno solo, carico di semi, sa la forza del fiore che farà scudo all'appetito fresco dell'insetto. Entre els dies que s'agarberen, brots verds iguals en aquest prat o l'altre, naulits i aixafats també els més vells, un sol grapat de llavors coneix la força de la flor que farà escut del fresc apetit de l'insecte.